Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. I diari di Voi siete qui, di Matteo Caccia. In collaborazione con l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Guardo il tempo scorrere lento e inesorabile. Qui in carcere sembra che noi tutti abbiamo la nostra parte e la recitiamo. Chi annega i ricordi nei dischi, chi ubriacandosi di TV, chi di radio, tutto pur di non vivere la giornata. Buongiorno a tutti e buon sabato soprattutto. Questa è la versione del sabato di Voi siete qui, che è i diari di Voi siete qui. Vi abbiamo già chiesto e ve lo chiediamo ancora di inviare a Voi siete qui @radio24.it le vostre pagine di diario, i diari che voi avete scritto magari anni fa o che avete trovato in giro per casa di parenti, amici o anche sconosciuti. Cioè li buttate giù in una paginetta di Word e li inviate a Voi siete qui @radio24.it. Questo programma però è assicurato, insomma lo possiamo fare anche grazie, assicurato non ha senso, ma lo possiamo fare anche grazie al contributo dell'Archivio Nazionale dei Diari di Pieve Santo Stefano, che ci dà la possibilità di leggere e di raccontare alcuni dei diari che arrivano a loro. Andate sul loro sito e scoprite un mondo incredibile e ascoltate la puntata se volete invece sentire un pezzo di quella storia. La storia che vi racconto oggi è la storia di Carmela e di Carmelo. Carmelo, lo avrete capito dall'intro, è in un carcere e quindi parla con il mondo esterno attraverso delle lettere. Conosce Carmela in un frangente all'interno del carcere e cominciano a scriversi lettere lunghissime, lettere meravigliose di chi è dentro e ha un contatto col fuori, come dice lui, e di chi è fuori e ha un contatto col dentro, con un luogo chiuso e inaccessibile. Sono Carmela e Carmelo, è solo un piccolo stralcio del loro scambio epistolare, ma è il meglio che siamo riusciti a fare. Casa circondariale Bicocca, Catania, aprile 2009. Latte caldo o tè? È uguale. Uguale come i giorni che passano. Tu speri che almeno ci sia un segnale che ti dica che oggi è Pasqua. Niente di visivo che dia la parvenza che oggi è la resurrezione di Cristo. Niente. Fortunato lui, noi siamo ancora qui, nel mezzo. Né vivi né morti. Viviamo una pseudo vita. Non una vita. Perché ci domandiamo vivere per un futuro? Per noi non ne vale la pena. Per la famiglia c'è chi non ha nemmeno più una. E allora perché? Per chi? Boh, non sappiamo darci una risposta. Si va avanti per forza d'inerzia. Guardo il tempo scorrere lento e inesorabile. Sembra che noi tutti abbiamo la nostra parte, volenti o nolenti, e la recitiamo. Chi annega i ricordi nei dischi, chi ubriacandosi di TV, chi di radio, tutto pur di non vivere la giornata. Sei con gli altri, ma sei solo con te stesso, pur sempre in compagnia. Vorresti esserci anche con la mente, ma non puoi, la mente è altrove. Il solo corpo rimane presente. Come a Natale, questa direzione fa di tutto per farci dimenticare che è Pasqua. Da un lato forse fa bene, chissà, potrebbe anche riuscirci. Carmelo. Catania, maggio 2009. Ciò che importa a questo mondo non è tanto dove siamo arrivati, ma la direzione lungo la quale ci muoviamo. Baden Powell. Ciao Carmelo, ho ricevuto il tuo scritto pasquale. Molto amaro, lo capisco. La sofferenza viene amplificata nelle festività. Conosco certi stati d'animo e come se li conosco. Tu hai tante risorse e sai come attivarle. Chissà se un giorno non darai il permesso alla tua mente e al tuo cuore di trasmettere alla mano gli input per scrivere le parole per dirlo. A presto, spero. PS, che sensazioni ti procura ciò che ti comunico dal mondo qui fuori? Il mio intento è farti partecipare spiritualmente, ma non vorrei assolutamente procurarti sentimenti spiacevoli. Ciao, affettuosamente ancora io. Ti abbraccio, Carmela. Carcere Bicocca, Catania, sabato 8 agosto 2009. Ciao zia Carmela, cosa mi comunichi? Ecco, iniziamo da questa domanda. Il rapporto epistolare con te è per me come un ponte col fuori, un ponte invisibile, ma sempre animato e foriero di novità. novità che attendo con impazienza e che, anche se in parte, riescono a colmare la fame atavica che mi porto dietro di notizie di qualsiasi natura, purché vengano dal di fuori. Tra il rapporto con te e quello con i vari professori che via via ho incontrato e da cui ho ricevuto tanto, posso benissimo affermare che sono cambiato molto. Certo, dire che da nero sono diventato bianco lo lascio dire agli altri, ma sentire mia figlia che mi dice che mi trova tanto, ma tanto cambiato e in meglio, mi fa sperare che anche non volendo la contaminazione, la buona contaminazione sia arrivata. Mai e poi mai i tuoi scritti e ciò che mi fai avere potrebbero farmi nascere sentimenti spiacevoli. Quando ricevo cose tue entro in una sorta di crisi, di ansia, di fame di notizie. Se questo non avvenisse, allora sì, che mi preoccuperei. E poi, sincerità per sincerità, puoi stare certa che qualora qualcosa non fosse di mio gradimento, col carattere che mi ritrovo, non credo che esiterei a dirtelo o a scrivertelo. Sono poco diplomatico. Dico sempre pane al pane e vino al vino, con chi ritengo amico mio. E senza voler essere retorico o melenso, io ti ritengo amica mia. Ciao, Carmelo. Catania, ottobre 2009. Toc toc. Ciao Carmelo, ti trovo sveglio? Noi cittadini del popolo della notte scriveremo. Oggi ho ricevuto due plichi. Grazie mille. Ti ho letto con il piacere di sempre. Ti ho capito. Ho condiviso ciò che hai scritto a proposito del bisogno di consegnare i tuoi pensieri. E ho pensato che la tua lettera è una tela pittata. Ogni artista si esprime con gli strumenti a lui più congeniali. Per te, le parole. Leggerti a volte mi emoziona. Santa parola che ci consente di pittare i nostri più intimi pensieri, sentimenti, riflessioni e paure. Ho trascorso una settimana in campagna a lingua glossa. Che dirti? La luna, il silenzio, lo stormire delle foglie. C'è il castagneto, sai che meraviglia. Il fresco, insomma, mi hanno pacificato. Ho fatto tardi la sera perché al buio contavo le stelle. In città con l'inquinamento luminoso sono scomparse e io non volevo lasciarle. Di giorno ho fatto la contadina, ho tolto erba, tagliato ruvetti. Ti confesso che anni fa mi sono fatta un ricco regalo, un decespugliatore, e quindi lo uso con grande divertimento. Faccio la cincinnata. Bello travaglio. Oggi sono tornata tra i barbari. Se la campagna non fosse isolata, ci starei forse sempre. Ti mando questi versi tratti da Il popolo delle rondini. Dall'inferriata guardo la notte mentre la rondine trilla sognante. Non sono solo, anche la luna e le stelle mi sono compagne e i campi risplendenti nel silenzio. Ciao e salute a tutto il popolo della notte. A presto, Carmela. San Juan, you've been living hell to me. You've hosted me since 1963. I've seen come and go and I've seen die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You've caught me and you've scared me through and through. And I walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand. Insomma, è una forma di quasi diario epistolare, se dovesse mai esistere, lo potremmo chiamare così, quello tra Carmelo e Carmela. Lo avete capito, ve l'ho spiegato in apertura, e l'avete capito anche dagli scritti che vi ho appena raccontato. Carmelo è chiuso, è in carcere, parla del mondo di fuori, e uno dei suoi collegamenti con il mondo di fuori, tra gli altri, è proprio lei, è proprio Carmela. Pronto Carmela, buongiorno? Sì, ciao, ciao, buongiorno. Come stai? Bene, bene, grazie. Dove tu? Ti trovi in questo momento? Io benone, grazie. Dove ti trovi, Carmela? In questo momento sono a casa a Catania. Bravo. Che tempo c'è adesso a casa a Catania? Una meraviglia. Figura. Una meraviglia, una giornata da fare un bagno. Magnifico, magnifico. Però tu, leggevamo, hai anche una casetta in campagna, giusto? Sì, ho una casetta a Lingua Glossa, che è un paesino dell'Etna. Ah, quindi zona etnea proprio. Cioè, è quasi, zona etnea. È, sì, quasi, sì, sì. È quasi montagna, quindi. È Carmela. Montagna, perché è 700 metri, grosso modo. Ah, ok. Fino alla Pineta. Che meraviglia. Bellissimo. Bellissimo. Senti Carmela, andiamo un attimo al motivo per cui siamo qui e ringraziamo te ovviamente e l'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano che ci hanno dato la possibilità di raccontare il vostro scambio epistolare. Innanzitutto Carmelo, come sta e se è ancora... allora, alla Bicocca. Carmelo sta bene e voglio dire ciao Carmelo, perché spero che ci senta. Certo. Allora, Carmelo è in Sardegna, in questo momento a Tempio Pausania, sta bene, sta studiando perché si è iscritto a Scienze Politiche, ha già dato due materie. Quindi sta bene. Quindi non lo vedi da tanto, però? Non lo vedo da forse due anni, perché sono andata a trovarlo a Catanzaro. Ah, ok. Perché prima di essere trasferito a Tempio lui era a Catanzaro. Era a Catanzaro, giusto. Sono stata a trovarlo. Diciamo, voi vi siete conosciuti, come succede quando ci sono dei professori che vanno nelle carceri? No. Ci siamo conosciuti perché io sono volontaria, quella è un'altra cosa. Scusami, credevo fosse lo stesso motivo. Tu sei volontaria? No, io sono una volontaria, quindi andavo al carcere di Bicocca, dove lui di tanto in tanto veniva quando avevo i processi qua a Catania. Ok. E quindi l'ho conosciuto in quell'occasione. Io stavo lavorando con un gruppo di detenuti, facevamo un laboratorio di attività espressiva anche corporea, e Carmelo è venuto un giorno lì al laboratorio, poi è stato trasferito credo l'indomani o dopo due giorni, e mi ha chiesto un libro in dialetto siciliano. Questa è stata l'occasione. È nato tutto da lì. Io così gli ho mandato un libro di Capuana, e poi da lì è venuta fuori tutto il questa nostro corrispondenza. Percorso così di relazione, ecco. Quindi quanto è durato, o meglio, da quanto dura il vostro... Dal 2007 a tutt'oggi, mi ha scritto ieri. Bene, allora lo salutiamo, che sicuramente, insomma, speriamo che o in diretta o in podcast ci recuperi. Prima di salutarti, Carmela, tu che cosa fai ancora? Lavori? Sei in pensione? Sì, no, guarda, io ancora lavoro, così in questo periodo all'università ho un contratto e sto lavorando, poi faccio la volontaria ancora. E cosa insegna all'università, Carmela? All'università ho insegnato metodi e tecniche del servizio sociale, perché ho insegnato nella facoltà di scienze del servizio sociale, quindi la metodologia del processo d'aiuto, diciamo. Wow, che detta così già mi sembra una cosa bellissima, Carmela. Bellissima, a me piace tantissimo. Quindi ora mi occupo di un laboratorio di tirocinio e comunque credo che questo sia l'ultimo anno. Immagino. Carmela, dalle tue lettere e dalla chiacchierata sembri una persona felice. Credo di sì. Bene. Ho le mie piccole felicità quotidiane, che può essere il sole oggi, che ci so dire, l'odore della pioggia ieri, e poi quello che forse mi rende felice sono le relazioni, ecco. Carmela, grazie davvero per la chiacchierata e per l'opportunità di leggere le tue lettere. Grazie a te, a presto. Una buona giornata. Grazie, ciao Carmela, ciao, grazie mille. Ciao Carmelo di nuovo. Ciao. I diari di Voi Siete Qui. In collaborazione con l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Che non è necessario avere avuto delle vite incredibili o avere avuto delle esperienze di costrizione come quella che sta vivendo Carmelo e che vi ho raccontato tramite le lettere di Carmelo e di Carmela nella prima parte di questa puntata dei Diari di Voi Siete Qui. Basta riprendere in mano un proprio diario, anche di 5, 6, 10 anni fa, e si scoprono dei pezzi di sé che forse siano dimenticati. Ha fatto esattamente così Gloriana, cioè ha preso un pezzo di diario esattamente del febbraio del 2000, quindi 14 anni fa, lo ha buttato giù in una paginetta e ce l'ha mandato. E questo è il diario di Gloriana. Febbraio 2000. Oggi è il mio 25esimo anniversario di matrimonio. Le famose nozze d'argento. Sembra ieri quando io e Antonio, guardandoci teneramente negli occhi, abbiamo detto sì al cospetto del parroco del mio paese. Fino a qualche giorno fa abbiamo discusso sui festeggiamenti da fare per l'occasione, sugli abiti da indossare, chi invitare e chi no, e sulle bomboniere da regalare ad amici e parenti. Poi l'altro giorno, mentre stavamo pranzando, improvvisamente, stupendo me stessa, ho detto: Antonio, che ne diresti di lasciare perdere tutto e tutti e spararci una bella vacanza in Africa? Detto fatto, nel primo pomeriggio siamo andati in agenzia turistica a prenotare un mega viaggio che attraversa lo Zambia, Zimbabwe e il Botswana. Tra 3 mesi partiamo. 2 anni dopo, 18 agosto 2002. Sono tornata da 2 anni dal meraviglioso viaggio nel cuore dell'Africa nera, esperienza che segna la vita, ritorno alle origini. Cosa ha a che fare tutto questo con una normale giornata metropolitana, però? Il fatto è che qualche giorno fa, tornando da una passeggiata ristoratrice sul lungomare della mia città, sono passata vicino al tendone di un circo, fuori dal quale, legato ad una zampa tramite una catena di ferro ancorata al suolo per mezzo di un palo, c'era un elefante. Non aveva niente che potesse ricordare i maestosi fratelli che a branchi si muovono maestosi nella savana, consapevoli di essere i padroni di quel suolo che noi piccole formiche al loro cospetto indegnamente occupiamo. In Botswana le parti si erano invertite, noi umani caca sotto, blindati nelle jeep, pronti a fuggire, e loro liberi a godere di quel ben di Dio. Forse il vero re della savana è proprio lui, è proprio l'elefante. Chissà se nella memoria di quel poverino costretto ad esibirsi in parti grottesche e innaturali in un circo è rimasto un piccolo cassetto della memoria che all'improvviso potrebbe aprire. Ed ecco il motivo di questa pagina di diario. Oggi prendo il giornale e leggo da Il Quotidiano del Golfo questo titolo: Jumbo, l'elefante del circo Terminelli, l'amico di tutti, all'improvviso è impazzito e ha ucciso il suo addestratore. Ecco, ho pensato, forse si era solo ricordato di qualcosa. There's a ring around the moon. There's a ring around the moon. There's a ring around the moon. They fall, they fall. A futura memoria. Potrebbe intitolarsi così questo programma se non fosse I diari di Voi siete qui. Sarebbe A futura memoria. Voi siete qui, @radio24.it. Se avete voglia di condividere dei vostri pezzi di diario, delle pagine che avete trovato, che avete riscoperto, come ha fatto Gloriana e ci ha mandato questo pezzo piccolo ma che è rappresentativo di una parte di sé, evidentemente, no? Di un elefante, di elefanti visti in Africa, più di un elefante visto per caso per strada che sostanzialmente, come dice lei, si ricorda di qualcosa del suo passato. Dicevo a futura memoria perché quando un paio d'anni fa mi è capitato che mi hanno regalato un quaderno trovato nella casa di una signora di una nonna di cui i nipoti stavano vendendo alcune cose perché dovevano liberarsi della casa, evidentemente avevano problemi di soldi, quindi vendevano gli oggetti di questa signora che aveva vissuto per 60 anni nella stessa casa di Milano, in zona Maciachini, e loro avevano aperto questo appartamento e su invito delle persone potevano andare e comprarsi alcuni pezzi dei mobili, dell'abbigliamento, pezzi della cucina, del soggiorno. E questo amico mi aveva regalato un quaderno, proprio perché sapeva insomma del lavoro che faccio e della passione per le storie delle persone, ed era il quaderno di questa signora scritto durante la scuola elementare, quindi aveva quasi 60 anni, forse 70, quel quaderno. E nella pagina iniziale lei aveva scritto proprio questa frase: a futura memoria. Se avete voglia di condividere quella che ormai è diventato presente, ma che all'epoca per voi o per chi aveva scritto il diario che avete in mano era roba scritta a futura memoria, inviatecela. Voi siete qui, @radio24.it. Tutti i sabati alle 14:30 noi la raccontiamo. Visto che alcuni mi chiedono esattamente più notizie, più informazioni riguardo all'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, è molto facile: andate su archiviodiari.org, che è il loro sito, e ci scoprite tutto, scoprite cosa il museo, cosa fanno e anche il premio Pieve da cui sono tratte le pagine di diario che vi leggiamo tutti i sabati. Grazie a Paolino Corleoni, grazie a Miriam Lucchetti, grazie a Tiziano Bonini, grazie soprattutto ai diari di Carmelo e di Carmelo, ma soprattutto a quello di Gloria, perché anche loro sono dei punti rossi su una mappa.